If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Bye. Welcome. L'ho detto prima io. Ridi. Dice che ridere fa bene. Allunga la vita. Anche gridare, sfogarsi. Get ready for some fireworks. Ma quanto freddo fa anche oggi. Ma quanta acqua soprattutto è venuta giù oggi. And now your favorite DJ. Sono io, Roby D'Antoni, vi dà il ben ritrovati e soprattutto il buon pomeriggio. Flashback. Iniziamo con il flashback, parte un'altra puntata di On The Road. Mettetevi comodi, sarà un pomeriggio lunghissimo soprattutto, ben due ore insieme, tanta buona musica. Cercheremo di accontentare ogni vostra esigenza musicale, ogni vostro gusto musicale soprattutto. Questo disco, che carica poi che ti dà, è come bere un buon caffè, cioè un bel espresso a quest'ora potrebbe anche starci bene. Ben ritrovati, che ora abbiamo fatto? 17:13, giusto per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta dalla Sicilia, perché poi ci ascoltano e ci vedono soprattutto in tutto il mondo grazie allo streaming. A proposito, volevo darvi il nostro indirizzo diretta @crmpiradio.it,

Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Biagio. Se volete potete farli voi direttamente i vostri auguri alle vostre persone care. Inviate i vostri messaggi. Fatelo ora. Questo disco è molto molto molto bello. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over. You never know. Bring it back. Come faremo noi? Non la canteremo più. E rimarrà un ricordo comunque. Noi che sto parlando di quel duo, sapete, i White Stripes, non so se il nome vi dice qualche cosa, probabilmente no, del duo di Detroit, però vi dirà qualche cosa se io canticchiassi, per esempio. Se, mandala sotto, questa qua, sì. Non so se vi dice qualcosa. Ecco, non so se ricordate questa canzoncina, quella che è stata famosissima ai mondiali del 2006, quella che ci ha visto vincenti, che ci ha visto portare a casa il trofeo più ambito di una nazione, squadra naturalmente nazionale, l'Italia nel 2006 che ha vinto tutto. Ebbene, il duo dei White Stripes è divenuto celebre, ricordo, con questo brano Seven Nation Army, che è stato il tormentone dei mondiali, questo proprio, i mondiali di calcio che ha caratterizzato tutta l'estate del 2006. Ebbene, annunciano lo scioglimento del gruppo. Come faremo? Non mangeremo più. Questa è una decisione irrevocabile che però Jack e Meg White non vogliono spiegare. Non si sa perché. Lo scioglimento è dovuto non a differenze artistiche o a mancanza di voglia di andare avanti, né per motivi di salute. Non si sa perché. Probabilmente perché non avevano più idee, aggiungo io. Scrivono in un comunicato ufficiale: il duo musicale era stato fondato nel 97 nel Michigan da John Anthony Gills e dall'ex moglie Martha White, ed ha in attivo 6 album. Io effettivamente conoscevo soltanto questa canzone, ripeto, resa famosa dal fatto che è stata un po' il tormentone del mondiale. Il successo però è arrivato con questo disco in sottofondo, il famoso Poropopopopo, che divenne un coro da stadio dei tifosi della Roma prima dei mondiali del 2006. Già lo usavano i tifosi della Lupa. A proposito di tifosi, a proposito di calcio, più tardi parleremo anche di quello che è successo ieri nel massimo campionato di Serie A, quello che è successo ieri alla Barbera, quello che è successo ieri a Verona e quello che è successo un po' in tutti i campi quasi. Questo è il titolo del nuovo singolo di Zucchero Sugar Fornaciari, si chiama Un Peccato Morir. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma soltanto 2 minutini, poi torneremo ancora in diretta, sarà ancora on the road, sarà sicuramente ancora tanta bella musica. GRL On the Road. No te ponga brutto. Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorre al oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mis que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su venia al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy loca con mi tiro. Si yo te complazo con todos tus caprichos, yo te llevo un malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vio bailando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor, y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Donna Shakira, loca, loca, loca. E allora parliamo un attimino di Checco Zelone, che effettivamente è una delle notizie che ha avuto, credo, un eco incredibile, il fatto stesso che lui non abbia un contratto firmato e quindi è senza provvigione. Dici, ma di cosa stai parlando? Bene, lui ha fatto questo contratto con questa casa cinematografica. Normalmente i contratti si fanno in base agli incassi. Lui credo che l'abbia fatto senza provvigioni e dice vabbè, faccio sto film. Chi si aspettava che il film avrebbe incassato qualcosa come 50 milioni di euro? Il contratto non prevedeva nessuna provvigione, quindi lui si è ritrovato senza una lira. Tra parentesi, naturalmente, perché poi ho sentito alcuni commenti fatti dagli esperti, normalmente quando un regista riesce in un'impresa del genere, poi non è che lascia a bocca asciutta l'artista, l'attore, anche perché è grazie a lui che ha fatto questi incassi record. Ebbene, ai microfoni dell'inviato Staffelli di Striscia la Notizia, Zalone spiega: non ho un contratto indicizzato ai guadagni del film, non sono previste provvigioni, un successo del genere non era prevedibile, va bene così, dice, i soldi della vita non sono tutto, l'importante sono le soddisfazioni. Io credo che rosichi un po' a dire una cosa del genere, però sono convinto che da qua alla prossima noi prendo un po' di provvedimenti. L'attore, in merito al tapiro consegnato pochi giorni fa a Roberto Benigni, perché Striscia la Notizia l'ha consegnato anche a Roberto Benigni, perché il film La vita è bella è stato spodestato dalla vetta della classifica dei film italiani più visti di tutti i tempi. Cioè, spodestato poi dalla bella giornata di Checco Zelone. Dal vertice di questa classifica italiana delle pellicole al record di incassi, dichiara, lui dice così: posso ringraziare il maestro, è uscito con una delle sue battute, posso ringraziare il maestro che ha pronunciato il mio nome l'altro giorno. Questo è un ringraziamento verso Benigni, che probabilmente, io non ho seguito l'intervista, probabilmente Benigni aveva menzionato Checco Zelone. Comunque non ho battuto il suo film, perché la sua è una pellicola di un certo spessore, molto più alto rispetto al mio. Poi è andato in tutto il mondo la vita è bella di Benigni. Lui è un grande signore, non ha fatto presente queste cose, lo dico io con umiltà verso verso il maestro Benigni. Zelone conclude così in maniera sua, poi molto divertente: potevate scrivere il mio nome sopra il tapiro a Checco Zelone senza provvigione, che fa pure rima. Però naturalmente, anche se io devo essere sincero, poi questa è una cosa mia, sono rimasto un po' deluso dal secondo film, perché chi ha visto Cado dalle nubi, secondo me, si aspettava qualcosina in più rispetto al primo. Invece, Che bella giornata, è stato nei limiti, però è sempre un bel film, molto spensierato, molto leggero, facile da vedere, due orette di sane risate. 17:40, questo è On The Road, c'è Roby D'Antoni con voi anche per oggi, insieme sino alle 19. This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I owe it all to you. The time, che poi riprende, c'è bisogno poco di ricordarlo, è la canzone che è stata colonna sonora del film Dirty Dancing. E allora, a proposito di film e televisione, stavo leggendo che a Zelig nella puntata del 4 di febbraio, quindi di domani, in prime time, quindi in prima serata, su Canale 5 è attesa una super ospite, il sottosegretario per l'attuazione del programma di governo Daniela Santanchè, naturalmente nell'interpretazione di Paola Cortellesi, che devo essere sincero, ho visto qualche puntata di Zelig, sta andando davvero forte. Riusciranno i conduttori a domare l'impeto da guerriera? Saranno capaci di trattenerla sino alla fine? Potranno arginare nuove ed esplicite manifestazioni del suo dissenso? Chi può dirlo? Poi tra gli ospiti ci sarà anche Paolo Villaggio, tra i comici sul palco quest'anno una formazione davvero di tutto riguardo: Ficarra Picone, Giovanni Vernia che torna, Enrico Bertolino, Lella Costa, poi tanti altri. Le novità di questa edizione: i Boiler, la voce del maniaco, il senso doppio, il gigolo Rocco, ce n'è davvero per tutti i gusti, una edizione nuova con grossi nomi che naturalmente fanno lievitare gli ascolti e vanno veramente alla grande. Non poteva essere altrimenti, in un programma che era già fortunato, vai a mettere tu nomi di questo calibro, che cosa può succedere? Forse ho voglia di te, ma non riesco a trovare un fiammifero per guardarmi dentro. Non lo so cosa voglio, però ad ogni modo, allora cos'è tutto questo tormento che mi brucia dentro? Cos'è? Che cosa ho? Forse cerco qualcosa, qualcuno che mi porti via. Cercarti e non riesco a trovarti un solo difetto. Che cos'ho che non va? E non riesco a dormire, continuo a rotolarmi nel letto. Aspetto un colpo di vento magari, magari, quello solo vincendo in qualche lotteria te lo potresti permettere. E allora 10 minuti alle 18, noi dovremo fare un attimo di pausa, ma proprio poco poco, poi torneremo ancora insieme, vi regalerò la vostra musica, devo accontentare tante segnalazioni arrivate, e naturalmente tanta carne al fuoco, come direbbe qualcuno, e scusa, dice, è per noi vegetariani, anche per voi. On the road, flashback. Ricordi, questi sono gli anni 80, si andava a ballare, questa è la musica che si ballava in discoteca in quel periodo. E allora attenzione, perché se avete in mente di fare un viaggio in America, sappiate che a New York per fumare è diventato una vera e propria impresa, diventa sempre più difficile fare un tiro di sigaretta per gli abitanti di New York. Il consiglio comunale della Grande Mela ha approvato infatti una norma che vieta di fumare in qualunque parco, spiaggia, imbarcadero, piazza pubblica, queste naturalmente le piazze newyorkesi. All'entrata in vigore del provvedimento manca solo la firma del sindaco Michael Bloomberg, che è da sempre in prima linea nella campagna antifumo. I fumatori di New York possono prepararsi a dire addio quindi all'agognata sigaretta, magari in pausa pranzo, su una panchina che so del Times Square. Qualcuno in pausa pranzo diceva: I'm going smoking my cigarette in the Times Square. Non lo puoi fare più. O al Central Park, per esempio. Perché entro 3 mesi entrerà infatti in vigore il divieto di fumo in oltre 1700 parchi pubblici, nei 22 chilometri di spiagge della città e nelle piazze pedonali come Times Square o i pontili di legno di Brighton Beach. Diventerà una cosa impossibile per gli amici che fumano andare a farsi una sigaretta in America. Vabbè, sono cose che capitano. E come per esempio, no, adesso salto adesso di palo in frasca, però oggi sentivo una notizia che ha quasi dell'incredibile: nei coffee shop in Olanda, se nei coffee shop è vietato entrare col telefonino. Cioè, tu nel coffee shop ti fai quello che vuoi, però devi spegnere il telefonino, perché mentre io sono là intento a rilassarmi un attimino e a te suona il telefonino, potrebbe anche darmi fastidio, potresti starmi un po' sulle balline e quindi devi spegnere il telefonino perché io mi devo rilassare. On the road. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Chiama Bruno Mars. Siamo al giro di boa, quindi alla conclusione della prima ora insieme. Questo è On The Road, c'è Robin Antoni con voi anche per oggi. Oggi che è il giovedì, è il 3 di febbraio. Ben ritrovati sui 101.4, come si diceva, no? I 101.4, le antenne intelligenti di CRM Happy Radio, con il sottoscritto sino alle 19, quindi ancora una buona oretta da trascorrere con la buona musica, con le informazioni, con le notizie, soprattutto con le vostre richieste. Continuate a farle, cercherò di accontentarvi al massimo sino all'ora di mia competenza, quindi sino alle 19. Intanto un attimino di pubblicità, proprio due minutini, forse qualcosina in meno, e poi ancora bella musica. CRM On The Road. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the sky. Bello il disco. E allora prima avevo commentato, avevo parlato di questa notizia che rimbalza dalla grande mela da New York, fatto che ormai tra qualche giorno sarà davvero impossibile fumare nei parchi, nelle varie, come potremmo dire, nelle square più importanti di New York, le piazze più importanti di New York. Ebbene, quindi che c'è andato a fare se fumate? Poi, se magari vi sorvola l'idea di andare, adesso da tutt'altra parte, in vacanza, vi do un'altra notizia bellina che arriva dal sud-est del Messico. Un altro squalo ha attaccato una turista canadese, le ha provocato un bel po' di danno perché le ha strappato un braccio, l'ha ferita gravemente ad una gamba nella zona che caraibica di Cancun nel sud-est del Messico, lo hanno riferito i media locali. Secondo una prima ricostruzione, lo squalo si era avvicinato alla costa per partorire e la donna, che faceva parte di un folto gruppo di bagnanti, si è avvicinata troppo ed è stata attaccata. Quindi a questo punto, di chi è la colpa? è dello squalo che è venuto troppo a riva per venire a partorire o della donna che era troppo curiosa e si è avvicinata troppo? Fatto sta che ancora una volta si è verificato un altro attacco di uno squalo, stavolta nel Cancun, nel sud-est del Messico. E vabbè, sono cose che succedono. I rischi che si corrono ad andare in quelle acque, no? Noche de luna llena, se escucha como un rumor, el canto de la sirena, la novia del pescador. Noche de luna llena, se escucha como un rumor, el canto de la sirena, la novia del pescador. El canto de la sirena, la novia del pescador. Pescador. Murphy, My Boy. Però sai, mi rendo conto che il tempo vola, quando sei in radio, no? Quelle orette volano via, una cosa incredibile. Infatti abbiamo fatto già le 18:24, giusto per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta. 101.4 CRM Happy Radio, potete seguirci in streaming, diretta @crmhappyradio.it. Potete richiedere la vostra musica o continuate a farla al 335-5637-251. Potete inviarci i vostri messaggi al nostro profilo Facebook, è facile da trovare CRM Happy Radio. Che dirvi di più? Io spero che normalmente il nostro palinsesto sia di vostro gradimento, ma siamo qua apposta per regalarvi sempre la musica più bella, grazie anche alle vostre segnalazioni, come dicevo prima. Questa deve arrivare sino a Geraci, da là che mi hanno chiamato. Non ho capito bene il nome, però va bene lo stesso. Chi ha richiesto il disco e sta ascoltando la radio si identificherà nel nostro radio ascoltatore. We'll be right back. the Road. Flashback. Che bello che è il disco di questo compianto grande artista, scomparso qualche periodo fa. E allora 18.39, ancora non avevo aperto la parentesi, avevo così anticipato in apertura, nei titoli d'apertura, avevo anticipato quello che è successo ieri nel recupero infrasettimanale del massimo campionato di Serie A di calcio, naturalmente. Con quello che è successo, purtroppo nessuna delle inseguitrici è riuscita ad approfittare del mezzo passo falso del Milan. Il Milan che ha impattato con lo 0-0 martedì contro la Lazio, e ieri invece il Napoli che ha perso contro il Chievo. Il Chievo che si conferma bestia nera del Napoli, ha vinto sia al San Paolo che a Verona, 3-1 a San Paolo, 2-0 a Verona, resta un po' l'amaro in bocca per i tifosi napoletani. La Roma che pareggia in casa contro il Brescia del neo, non potremmo dire perché già lo era stato, allenatore del Brescia Iachini, è ritornato portando un buon pareggio al rientro. Mentre invece la partita che ha suscitato, credo, più scandalo è stata proprio quella del Barbera, mai avremmo voluto commentare questa partita. Dico, meno male alla fine che il Palermo, uno piange con un occhio della serie. Vabbè, è stato col Palermo, un Palermo che effettivamente durante l'arco del campionato è stata tartassata dai torti arbitrali e ieri si è vista un po' ripagata, però tutto questo ne ha fatta le spese la Juve, una Juve che per ora è in crisi. Se ci metti pure che in una partita dove stava giocando bene arrivano questi torti arbitrali, ma la cosa che più ti ha fatto irritare ieri era proprio il comportamento. Io ho visto la partita e poi me ne sono accorto durante i vari appuntamenti serali di controcampo, in particolar modo quello che ho visto io, si vedeva l'arbitro che notava l'azione fallosa, però si girava da tutt'altra parte. E continua. C'è il rigore nettissimo di Bovo, nessuno può negarlo, poi altri due o tre episodi in area del Palermo, però dico va bene. E infatti ancora non si sa se l'arbitro venga sospeso, probabilmente no, là ritorna ancora Calciopoli, la società che si lamenta, che naturalmente dicono noi abbiamo già pagato, non vorremmo continuare a pagare. Ancora Krasic tartassato dagli arbitri e ieri hanno fatto notare che ancora una volta si sono sbagliati, perché effettivamente sono stati due o tre falli contro di lui, non era simulazione per niente, ma va bene così. Fatto sta che la Juve con il neo acquisto Matri non è riuscito, che avevo detto che ieri avremmo visto, ma era scontato il fatto che ieri al Barbera apparissero gli striscioni con la scritta Matri. Va bene, 18:43 in questo istante, in diretta dalla Sicilia in tutto il mondo. Tutto il mondo ci sta sentendo. 18:43 da queste parti, in buona parte del mondo, dove c'è il fuso orario, non so adesso che ora potremmo avere. Che abbiamo anche le comunità italiane in America che ci stanno seguendo. E noi volevamo salutare i nostri amici cittadini che sono sparsi un po' in tutto il mondo. I nostri conterranei, quant'altro, i parenti che seguono e si sentono un po' più vicini a casa loro.

Belleros, nuovo schema punti e note, 18.56, mamma mia, è volato via l'appuntamento di oggi, pochissimo, poi dovremo salutarci, pochissimo, quantificato in tempo, c'è ancora la possibilità di un disco. Here we go. Credo sia stato uno dei più ballati di questo periodo invernale. Hello! Martin Solveig. Solveig a chiudere l'appuntamento di oggi, giovedì 3 febbraio, sono i giorni più freddi dell'anno e si sente, a questo punto vi saluto, noi ci risentiremo ancora domani nell'ultima puntata settimanale dalle 17 come al solito sino alle 19, è stato un vero piacere, grazie a tutti quanti voi, thank you very much. Merci beaucoup, siamo in giro per il mondo, quindi è giusto salutare in multilingue. Da Roby D'Antoni un bacione, alla prossima, bye!